in treno non è più come nel primo dopoguerra, allora quando la familiarità fra viaggiatori che mai si erano visti prima poteva darsi per scontata dalle pene vissute che l'un l'altro si attribuiva implicitamente, così un po' alla cieca, non è più come nel primo dopoguerra, ma oggi, ecco, oggi pare ancora legittimo rivolgersi la parola, attutire l'urto della caduta da una città all'altra con una conversazione lenitiva. L'orario di arrivo è incerto quanto prima, ma al posto degli accelerati, il cui nome mentiva spudoratamente sul modo con il quale adempivano la loro missione, sono oggi in vigore gli Eurostar, trappole claustrofobiche per una clientela d'affari, una clientela che scarica all'azienda il prezzo del biglietto, che non ha tempo da perdere, che neppure ha parole da perdere, che sa che tempo e parole sono denaro perso, che sa che spazio e silenzio sono tutto di guadagnato. Ciò nonostante, il viaggiatore che, salito a Bologna l'altro giorno, mi si è seduto di fronte ad un dato punto di quella minima parte di viaggio che abbiamo fatto insieme, mi ha rivolto la parola. Stavo andando a Firenze. Lui sale a Bologna, controlla se il posto è proprio il suo e, senza neppure guardarmi, mi si siede di fronte. Tiene una cartella sulle ginocchia e ogni tanto guarda dal finestrino, mentre io sono immerso nella pace solenne dello scandaglio dell'anima di Georg Christoph Lichtenberg, uscito ora da Rizzoli, curatissimo da Anacleto Verrecchia. Il treno si muove e la relazione per una decina di minuti sembra destinata a non cambiare più. Invece, ecco, dopo una decina di minuti sono proprio ricondotto alla vita empirica da una domanda. Viene da Milano? Trascuro il fatto che su quel treno non posso venire da nient'altro che da Milano, passo sopra il fatto che lui dovrebbe saperlo, alzo la testa dalle pagine di Lichtenberg e, interpretando al meglio la disponibilità gentile, dico: sì, vengo da Milano. Lui allora guarda fuori e tentenna qualche momento, fino al punto giusto, arrivato al punto giusto per indicare col dito. Ecco, vede quella villa là, su quella collina là, una bella villa, quella quasi nascosta da quel bel boschetto. Beh sì, gli alberi li vedo, un tetto che spunta, vabbè, pure sì, c'è, ammetto, mettiamo pure che potrebbe anche essere una villa. Faccio segno di sì e aspetto il resto. Lì, pensi, lì, quella è la villa di Montezemolo. Il treno va, la villa, se c'era, è ormai lontana e la mia faccia deve essere rimasta leggermente tetragona. Così lui aggiunge che Montezemolo è quello della Ferrari, è quello della Ferrari. Sì, a me viene in mente Edvige Fenech, ma mi guardo bene dal dirglielo. Ho capito, ha bisogno di parlare. Mi tolgo gli occhiali e mi accingo a tirare fino a Firenze nell'amabile conversazione con costui. Non mi ricordo più chi sia quel tale che definì la celebrità come l'attributo di colui che lavora tutta la vita per farsi riconoscere e va in giro con gli occhiali neri per non farsi riconoscere. Si tratta di un'affermazione portata agli estremi del paradosso, ma non priva di una sua consistenza. Chi vede nel pubblico l'unico criterio del proprio successo, prima o poi prova nostalgia di quel privato che è andato via via dilapidando. E spesso corre a ripari che duplicano il male, come quando qualcuno è più notato per gli occhiali neri che porta che per la propria persona. Nel caso di una conversazione accesa grazie soltanto allo scambio di informazione sulla celebrità, ci troviamo tuttavia ad un secondo livello della questione. Dal soggetto celebre, diciamo, siamo passati all'oggetto celebre. chi si è lasciato alle spalle il proprio anonimato, come faccia o come nome soltanto, diventa moneta di scambio buona per tutti gli usi, pagabile a vista in qualsiasi transazione. Nell'interazione con altri, chi prende l'iniziativa di interloquire necessita di un terreno comune, un sapere condiviso da cui prendere le mosse per poi con sempre maggior sicurezza far penetrare il proprio scandaglio, come direbbe Lichtenberg, nell'anima dell'interlocutore. Che poi questo scandaglio sia destinato a non toccare mai il fondo è tutt'altra questione. La società umana è quella che è, e il bilancino delle convenienze per lo più detta ritmi e orientamenti poco impegnativi. La celebrità paga celermente e pressoché tassativamente. È più facile intavolare una conversazione lanciando all'interlocutore Giulio Cesare che non Ermenegildo Fregnetti. È più probabile che il dirimpettaio in treno abbia letto qualche pagina dei Promessi Sposi che non della Femmina Esanime di Eraclito Pontico. Non solo. Chi inaugura la conversazione provando a lanciare la celebrità, se gli va bene, parte avvantaggiato. Non dico di quanto costituisce il vantaggio della celebrità nei confronti dei comuni mortali, ma di un minuscolo vantaggio sì. Il suo sapere sull'oggetto del discorso glielo avvicina. Se si sa qualcosa su qualcuno, si è più vicini a questi di colui che non lo sa. E l'informazione assume i connotati ideologici del dono, che, come si sa, obbliga il beneficiato nei confronti del donatore. Mi è anche balenato in mente il caso di Alberto Tomba. Alberto Tomba, sciatore e carabiniere, che a dire il vero nella sua seconda funzione, a differenza della Roseur à Rosé, dell'innaffiatore innaffiato dei primordi cinematografici, nella sua seconda funzione lascia alquanto a desiderare, non essendo riuscito mai ad arrestare se stesso. Riconosciuto il fatto dalla nostra magistratura, una mastodontica evasione fiscale concernente le decine di miliardi guadagnati con la sciolina della sua fronte, è andato assolto perché per fanciullesca inconsapevolezza. Gli è stata riconosciuta una sconoscenza sesquipedale di aspetti fondamentali della vita di relazione. Così recita il testo della sentenza, una sconoscenza sesquipedale che a me, per esempio, mai nessun vigile urbano ha mai concesso al momento di appiopparmi una multa per divieto di sosta. Ottimisticamente si potrebbe allora dire che lo svantaggio dell'anonimato viene colmato dalla considerazione dell'autorità, sempre pronta a riconoscere la tua cultura e la tua intelligenza, mentre il vantaggio della notorietà viene accresciuto da un credito immenso concesso dalla stessa autorità a qualsiasi costo sociale e individuale, anche a costo di riconoscere all'attore di quella notorietà tutta la sua ignoranza e la sua inconsapevolezza. La moneta della celebrità, quindi, non solo vale in qualsiasi mercato, ma, per così dire, prevarica ogni altra moneta costituita. È pagata pronta cassa, mentre il corso delle altre è momentaneamente sospeso. Partito con la villa di Montezemolo, chissà dove arriverà. Mi dicevo, vabbè, richiuse le 659 pagine del Lichtenberg, mentre proseguivamo per Firenze. È partito con la villa di Montezemolo, da Montezemolo potrebbe andare alla Ferrari, c'è già arrivato. Poi, vabbè, corse automobilistiche, con me sarà dura, Fiat, Casa Agnelli. Casa Agnelli, ingiustizie sociali oppure crisi del mercato automobilistico, magari scioperi poi dove andremo a finire? Si stava meglio quando si stava peggio? Discorsi da treno, treni in ritardo, sguardi preoccupati, occhiatina all'orologio. Ma invece il mio interlocutore non aveva finito di sorprendermi. Fattami vedere la villa di Montezemolo, o meglio, un po' di alberi che nascondevano quella che a suo dire era la villa di Montezemolo, ha preso la sua cartella, l'ha aperta, ne ha tirato fuori un'agenda che, pagina per pagina, ha fatto scorrere in totale silenzio fino a Firenze. Mai più alzato lo sguardo, mai più detto una parola. Mi ha chiamato, mi ha messo sull'attenti e si è dimenticato di dirmi riposo. A Firenze io sono sceso, lui è rimasto. Ho provato a dirgli un buon viaggio, cui lui non ha risposto, e l'ho abbandonato al suo mistero. Ripensandoci mi sono detto che forse l'avevo offeso, se non offeso ne avevo almeno spento gli entusiasmi. Forse avrei dovuto dire, quella è la villa di Montezemolo, avrei dovuto dire: ma no, ma davvero quella è la villa di Montezemolo? E invece avevo creduto al volo e con una resa precoce, troppo pronta, avevo indirettamente svalorizzato quanto lui stava offrendomi. Chi riceve un dono, d'altronde, non deve mai mostrarsi troppo d'accordo sul fatto di meritarlo. Più false resistenze esprime, più aumenta la gratificazione del donatore, più manifesta la propria inadeguatezza a ricevere, più ingrassa l'adeguatezza di chi dà. Dovevo aver deluso il mio dirimpettaio, a meno che la sua delusione non fosse doppia. Già, perché a pensarci bene, ecco, poteva essersi dato anche un caso di mia inadempienza ben più grave. Che Montezemolo fosse lui,